chiamato che erano le 8, avevi detto posso ma non mi hai risposto. Male, molto male, cos'è successo, quali causa effetto? Se non c'è più poesia, non c'è più dignità. Sto meglio quando vai via, se non è più amore il nostro. Era un'autopsia. E poi mi sono fatta un pianto mentre me ne andavo sopra un taxi bianco come un'astronave. Primo di maggio, primo dell'anno, stessa malinconia. Ti dico la verità, sto meglio quando vai via, perché avrei bisogno adesso di una persona normale. Per te non ho carattere e allora è banale che preferisco il mio cane. Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo, ad altre sotto sotto. Anch'io starei pensando, anch'io ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare, che preferisco il mio cane. Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo, puttane sotto sotto. Anch'io starei pensando che avrei solo bisogno di un'amica, soprattutto perché sei contorto e soprattutto perché sei uno stronzo. E mi dicevi di recente bevi troppo, mentre io mi immaginavo un figlio nostro. No, non è una casualità, sto meglio quando vai via, perché avrei bisogno adesso di una persona normale. Per te non ho carattere e allora è banale che preferisco il mio cane. Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo, ad altre sotto sotto. Anch'io starei pensando, anch'io ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare, che preferisco il mio cane. Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo, puttane sotto sotto. Anch'io starei pensando, davanti agli altri almeno fai finta. Vorrei ma non potrei restare tua amica. Siamo vivi al nostro funerale in prima fila. Quando un sogno va così avrei solo bisogno di una persona normale. Per te non ho carattere e allora è banale che preferisco il mio cane. Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo, puttane sotto sotto. Anch'io starei pensando che avrei solo bisogno di un'amica, di una mia amica, di una mia amica. Avrei solo bisogno di